Dell'imponente patrimonio culturale della nostra comunità. Ed è importante che lo si faccia ricercando i finanziamenti adeguati, date le note difficoltà di liquidità dell'ente, che sappiamo possono notevolmente limitare lo spazio di manovra per attività di questo tipo, ma che non devono diventare la scusante di un'inattività perpetua. Si auspica, come già denunciato in passato, che tale promozione possa essere accompagnata da appropriato materiale pubblicitario e promozionale da offrire a chi si trova in visita presso la nostra comunità e a coloro che hanno intenzione di visitarlo nell'immediato futuro. Il desiderio è che l'epoca delle fotocopie sbiadite possa finalmente cessare e che le repliche delle repliche, di pessima qualità dalla presentazione, di pubblicazioni comunque già datate, possono progressivamente sparire del tutto. È una questione di immagine per la città stessa e sappiamo bene quanto conti nell'attività di promozione e di accoglienza la presentazione del prodotto offerto, che deve essere quanto più impeccabile possibile. Nella stessa delibera purtroppo si riscontra la grave assenza di un sito di notevole importanza a livello nazionale ed internazionale che questa amministrazione continua da tempo ad ignorare, non riportandolo spesso neanche nella segnaletica e nelle mappe dei luoghi di interesse del territorio. Si tratta del Museo dell'Informatica Funzionante, la cui esistenza è stata già ricordata diverse altre volte dagli amministratori. Eppure si tratta di una realtà che, da tempo, tenta di trasmettere un'idea innovativa di museo, che raccoglie pezzi storici del mondo informatico, anche di un certo valore, e che vuole consentire ai visitatori provenienti da tutto il mondo anche la possibilità di verificare con mano, in gergo si dice insomma, il loro effettivo funzionamento. Si tratta di un luogo che è stato già più volte portato alla ribalta internazionale da media specializzati e da televisioni nazionali ed internazionali, organizzatore di corsi di formazione, workshop e convegni su sicurezza informatica, programmazione, storia dell'informatica, libertà di informazione ed altro ancora. Con già alle spalle svariate esperienze di collaborazione con scuole ed università italiane ed esperienze di progettazione in paesi come India, Palestina, Germania, Olanda, Ruanda ed Indonesia, ha ottenuto l'inserimento nell'elenco delle attività culturali riconosciute dall'UNESCO, che poi è la stessa organizzazione mondiale del cui riconoscimento si vanta sempre e anche giustamente la nostra comunità. Vado al punto. Considerata la sua quasi unicità al mondo ed il patrimonio di conoscenza che esso racchiude, ritenendo che, pur con un'ovvia caratterizzazione differente dagli altri, il silo possa essere perfettamente inseribile tra i luoghi di interesse che andrebbero a costituire il polo museale palazzolese, preso atto del rischio concreto che una realtà di livello mondiale, già contesa da altre cittadine e da poli universitari, possa abbandonare questo territorio in cerca di localizzazioni più favorevoli e realtà amministrative più interessate che già ci sono, vagliata l'importanza del ruolo che il museo potrebbe svolgere anche all'interno di una rete museale complessa, quale strumento di collegamento tra tutte le realtà attraverso l'uso dei nuovi media, si chiede alla Signoria Vostra di effettuare quanto prima e ove possibile un'integrazione al progetto approvato dalla Giunta Municipale, che possa essere inclusivo di quest'ulteriore realtà, da cui, si ricorda, l'intera iniziativa potrebbe trarre giovamento, di dotare il museo dell'informatica funzionante di adeguata segnaletica urbana e di segnalarlo con tutti i mezzi già in uso all'interno dell'offerta culturale del comune di Palazzolo. C'è un post scrittum. La presente proposta, tramite l'attività ispettiva, conferma la volontà di suggerire all'amministrazione proposte concrete per il Paese, ragionando su problemi di interesse generale. Ogni nostra eventuale critica è da considerare esclusivamente come invito a ripercorrere le soluzioni più idonee, come nel caso esaminato. Grazie. No, l'ho indicato, poi se il sindaco vuole rispondere per iscritto o verbalmente va bene lo stesso, l'importante è che... Sì, no, non l'ho chiesto perché in effetti è una proposta, però se mi la puoi rispondere... Sì, mi sembra anche giusto, insomma, che se ne tenga. Di che cosa si tratta? È meglio conosciuto tecnicamente come decano concessorio per ricordi propri, ma poi praticamente di che cosa si tratta? Si tratta di poter applicare, diciamo, una aliquota su quelli che sono i ricavi della società. Questa aliquota può arrivare fino al 10%. Perché non si è fatto prima e perché si sta facendo? No, non si è fatto prima perché in Sicilia prima non è. In base a un articolo inserito nella finanziaria del giornale, per quest'anno è impossibile e quindi come tale possiamo proponere al Consiglio Comune. In realtà l'articolo recita che i comuni possono, quindi non è dato come fatto obbligatorio in queste circostanze, capiamo bene che siamo nell'alveo dell'opportunità. E chiaramente per noi è un fatto opportuno. L'epoca in cui sostanzialmente abbiamo un obbligo di partire con la contabilità armonizzata, nel momento in cui anche quest'anno, l'ho detto in varie occasioni, quello che è il Fondo di Solidarietà Nazionale sta del gettito IMU e tasse, quindi di quelli che dovrebbero essere tributi locali, così nello Stato, relativo da una parte, alla luce anche dell'ulteriore riduzione dei trasferimenti regionali di circa il 10%, è necessario assicurare sia una riuscita determinando dei tagli, questo che stiamo facendo per pareggiare il bilancio, ma è necessario anche curare in maniera altrettanto puntuale, in maniera altrettanto precisa quelle che sono le entrate. E tra queste entrate noi riteniamo importante, perché diciamo l'entrata per il canone concessorio ricognitorio, che è stato previsto dall'articolo 9 e 4 della legge 9 2015, meglio noto come nel finanziario della regione. Quindi per tale motivo ritorno a ringraziare il Consiglio per la convocazione urgente e chiaramente ne chiedo nel questo Consiglio di votare favorevolmente per questa proposta di istituzione del CAN. È necessario per cercare di limitare i dati e per cercare di limitare per quanto possibile quelli che sono i necessari aumenti sul punto locale per poter adeguare quello che è il redigendo del bilancio professionale. Grazie, signor Sindaco. L'argomento è stato oggetto di valutazione su studio da parte della seconda commissione. Anzi, il Presidente Giusto, prego. Sì, Presidente, la commissione si è riunita questo pomeriggio sull'argomento e abbiamo avuto modo di approfondire il tema grazie alla presenza del Sindaco e del responsabile dell'ufficio, il dottor Filippo Toscano, che ringraziamo appunto per la presenza e per la disponibilità. Il punto è stato approfondito, è stato concreto, abbiamo cercato di farlo nostro, vedendo appunto nell'argomento una forte intuizione da parte dei proponenti, quindi dell'amministrazione, in quanto è in linea con quello che è il principio del federalismo fiscale e quindi sicuramente ha trovato il nostro sostegno, il nostro appoggio. Il gruppo di maggioranza quindi si è espresso in maniera favorevole, il gruppo di minoranza rappresentato dalla consigliera Giardina si è rinviato al Consiglio, pur mantenendo comunque un profilo alto e responsabile di cui io ho dato. Sì, allora la nostra preoccupazione era semplicemente che comunque sì, che comportasse, che l'istituzione di questo canone concessorio comportasse un aumento delle tariffe e quindi gravasse sulle tasche degli utenti. In realtà il sindaco ci ha assicurato che non comporterà alcun aumento e quindi, data questa rassicurazione, esprimiamo un parere favorevole. Che è d'accordo che si è seduto, che non lo è stato approvato all'unanimità. Ecco, penso che non ci siamo Io devo dirne che del Museo dell'Informatica mi scordo personalmente dell'esistenza, però siccome sono sempre molto sincero nelle cose, che ne è un'importante realtà, me lo devo ammettere, perché lo dico come fatto personale, perché vedo danno conferma a altri, cioè soggetti di fuori che mi dicono avete un'importante realtà che è quello del Museo dell'Informatica. Io vorrei suggerire una cosa, è una cosa anche che ho mandato a dire, in qualche modo si devono proporre pure loro, perché ricordo che abbiamo avuto un primo incontro, ma tantissimi anni fa, forse io ero appena diventato sindaco, poi non ci siamo più incontrati. Non è stato per una mancanza di volontà, penso né mia né anche da parte di loro, però questa cosa la dobbiamo fare. In merito all'integrazione della delibera la possiamo integrare, però una cosa che devo comunicare a questo mio consiglio è che quella delibera l'ho fatta in funzione di una circolare che è uscita dal sussidio della regione da parte del Ministero culturale, che tra l'altro avevamo un tempo limitato di 15 giorni per poter presentare un progetto. Sono accorto dopo 5 giorni, quindi abbiamo fatto il tutto nel giro di 10 giorni. Io ne proporrò ai soggetti partner, perché avete visto bene, non è il comune che propone nel racconto di altri, ma in partenariato con la sovrintendenza, l'associazione Centroweb, l'associazione di Buscema per quanto riguarda il Molino d'Acqua e la Casa Museo di Antonio Nocciolo. Chiederò agli altri che nell'ambito del decreto, se il progetto viene valutato positivamente dall'assessorato bene culturale, quindi se ci viene nel concesso il patrocinio, no? Cioè quindi diventa un'iniziativa direttamente proposta dall'assessorato bene culturale, chiederò che nell'ambito del TEPER venga riportato anche il Museo dell'Informatica. E poi per la segnaletica dobbiamo rivedere, perché di fatto dobbiamo rivedere un po' tutta la segnaletica, tenendo conto anche di quello che è una cosa che sta studiando una laurea interlante con l'Alessandro, che in effetti loro l'hanno studiato, sono io ora in ritardo che lo devo leggere, che dovremmo riordinare un po' tutta la segnaletica per renderla anche più decorosa, più presentabile, vorrei dire anche con quel tocco dell'architetto, degli architetti che non farebbe male all'intero della comunità, quindi l'architetto no, perché sono abbastanza precedente e nessun pregiudizio, anzi una grande disponibilità a queste cose. Io peraltro mi sono posto il problema pure in questi giorni, dico ma chissà che non è il caso pure che dovremmo citare il Museo delle Arti Nobiliari, ma lì è anche un passaggio da fare, perché se il museo rimane chiuso è chiaro che vale la pena di non, cioè, è il caso di non citarlo. Se ci sono delle novità invece sarebbe opportuno inserirlo in quanto un'altra realtà di, questo, di questa comunità che andrebbe valorizzata. Sì, ma io voglio aggiungere una cosa. Sì, è vero, in effetti loro hanno questo difetto che si riconoscono loro stessi di non sapersi vendere, nel senso che dice forse pure noi ci dovremmo promuovere un po' di più, perché mi è capitato di parlarci, in effetti loro stessi riconoscevano questo difetto. No? Io poi comunque chiedevo l'inserimento anche perché loro solitamente fanno dei progetti anche, cioè io ho visto per esempio c'era un'attività di pubblicazioni o altro. Loro potrebbero anche fare un potrebbero anche occuparsi di un altro progetto collegato, non lo so, una sorta di portale, cioè sto abbozzando un'idea così. Si cioè un'altra forma, diciamo, di promozione, ecco, quindi potrebbero essere utili in questo senso, ecco, per questo. Vabbè. Grazie. Grazie a tutti, buonasera.